7, ma lì su 8, portando lì, comunque tiro giù, Polizzano, dai. Buona giornata, 5 giri a Pizzani, dai. Ciao Stefano, buona giornata. Ciao Stefano, buona giornata, dai. C'è qualcuno sul canale 5? Attenzione 5. Cazzo, che sto dolore che non morendo. taglio Malva a cavatato, ma che mi tira tutta la mano e lo braccio pure, me. Gaffa, attento Gianni. blu, c'è la soglia, forte, forte, forte, fisso. Rimane male, devi dare lo servizio. Aspida. Aspida anche. Vai, aspida, se devi dare. Ebbè. Santiago, Santiago 1. Santiago 0, Radio 1. Esatto. Manager i turchi. No, ma bisogna andare, ha di partito, mi sono stato un attimo, andiamo più avanti. Grappa. Del coso, mi sembra, dell'amplificato, del loro piccolino. Sta tratto, sa, no, ma è pure, c'è un tratto, boh, c'è un altro in corto. Ma non c'è mai niente quei PL piccoli. No, quelli piccoli a me non mi hanno mai fatto problemi, io ce li ho. Ma il problema è che c'è la difetta solo il PL, perché adesso si stanno facendo anche qualcosa troppo stretto, troppo largo. Prima le faccio, voglio una visita al suolo, vanno vivi, li prendevi tranquillo, adesso non si è manco regolati perché c'è, cioè, la panata più grande e la panata più piccoli, però se cioè, più grande ci gioca dentro, facendolo come lo fai tu. Invece vuole mettere, allora vuole mettere tutto il filo intero, poi la carta girata dove c'è la filettatura e poi c'è l'altro. giri lì a destra, prendi la stradettina per Alghero, e poi trovi scritto zona industriale, cosa niente. Giri lì con i cartelli, capito? Magari se fai la strada. Attento, collega. Forte. No, aspetta un attimo.